confermo, confermo, confermo, confermo, confermo, confermo, confermo, confermo, confermo, confermo, confermo, confermo, 24. Non è semplice descriversi una transizione di stato, una transizione di stato, oppure funziono inserita la spina come lavatrice, automobile, trapano elettrico, in effetti non si somigliano meccanica e biologia. Iniziai a fare chiarezza nella matassa dei fenomeni naturali, mi fermai tra le erbacee, alla base di questo traliccio, iniziai a raffreddarmi, il mio corpo prese a disfarsi secondo i canoni della materia. Appartengo al novero delle entità prive di vita, ma non sento come enfasi, ma privo di sensi come macchinario. Confermo, confermo, confermo, confermo, confermo, confermo, confermo, confermo. Decesso, mio decesso, il mio decesso, il mio decesso, confermo, il mio decesso, il mio decesso, confermo.